questo mare è facile andare a fondo, come uno scontro sulle strisce pedonali, con un domani che non cambierà il tuo mondo. Mi spara alla goccia una boccia, poi vado al DAO a spaziare, lascia stare, minchia raga, porco DAO. Sta roba già spaziato, wow, ma ti manda in down. C'è troppa giazza, ci si scialla con una bottazza. Chi fa su una brasa in piazza, chi si fa la piazza. C'è chi se la rolla, chi la gira in bolla e chi se la pollazza. Gira una tabaccata e poi ti parto d'ignoranza. Si accolla come colla e siamo 10 in una stanza. Ora gamma dama, borsatela nei coglioni. Se vi sgama la madama vi fanno da bacchettoni. Ci hanno smarronato perché non sanno bossarci. Se vengono quelli là, mi sa, dobbiamo darci. Io l'ho presa a UFO col tipo, poi ci sa giusta. M'ha dato la busta, gli ho detto, fammi sta giù. La mia cumpa è una giungla, si urla chi la cunda. E non passarla a lui, che in due botti se la sciurpa. Parlo con lo slang, è il dialetto della via. Che si parla nella via di casa mia. Io parlo lo slang, è il dialetto della via. Della mia via, è musica periferia. Io parlo lo slang, è il dialetto della via. Il dialetto della via. Parlo con lo slang, è il dialetto della via. Della mia via, è musica periferia. Oh, non l'ammazzare, fammi fare sti due schioppi. M'han detto che pischella, ma stappa troppi chinotti. Io vado a sbraggiare, che suona Ricky Leroy. Ho ballato, ci ho sballato, beccato Ricky di Pra. Un tipo ha caricato ed ha beccato questo tipo, che gli ha dato un chilo a puff e puff, è sparito. Questo ha sbarionato, gli ha sgrammato più di un chilo. Questo si è incendiato, l'ha beccato, c'è partito. Giro con il papero e sul dritto io ci tiro. Se passi quando passo io ti stiro. Mi son fatta anche il crestino, uguale a mio cugino. Andiamo in giro in macchina coi pezzi di Franchino. E se mi pizzano lo scitto l'ho preso da un magrebino. O svuotiamo un magazzino o ci asciughiamo un albarino. Olapa, quello è un coglione, un bacchettone, la pardona. Che dopo un pattone ha smarronato, ha fatto il nome. Parlo con lo slang, è il dialetto della via. Che si parla nella via di casa mia. Io parlo lo slang, è il dialetto della via. Della mia via, è musica periferia. Io parlo lo slang, è il dialetto della via. Il dialetto della via. Parlo con lo slang, è il dialetto della via. Della mia via, è musica periferia. Anche fare l'altro un po' mi fa schifo. Mad Studio, va bene 2015. Se ci arrivo, è quello che ci spara. Con lo slang, bella a tutti.